Sandro. Alessandro. Walter. Alberto. Barciccio. Oh! ちで。 鬼です。 わっちゃん、 エステラ、 zucca, prova l'are abba de manna, con in duna manu sa canna, e in satera su bischedu, e falende cun saineddu, bifi su mere quau, assa poche chi l'ha bettadu, se spesau comente voreddu. E bobore figa morisca sia nostro intercessore, figa morisca bobore. Vattene! Vattene! su. Thank you. Muscles Van Huffel. What's your name? Melinda Jackson. Thank you. Mickey. Didier. Rosina en français ou Rosino en occitan. Martine Burlin de Paire. What's your name? My name is Thierry. Stephen Flynn. Jean-François. Paul Rose. Ed. Thank you. name is Film. That's P-H-I-L-M, Film. Cheers. My name is Stuart. Stuart, S-T-U-A-R-T. Thanks. Thank you. Picasso. Marcello. Lisa Schimbo. Malata. Non è vero. Non è vero. It's not true. No, no, questa è malata. Scimpo, io la scimpo. No, scimpo, scimpo. What is your name?